Radio 24 Reportage. Cambio di passo a Madrid, di Sergio Nava. La precisione geometrica delle luci che circondano Madrid ti accoglie la notte, quasi come atterrando su un pianeta partorito da un romanzo di fantascienza. Dall'alto è possibile apprezzare i grandi sforzi infrastrutturali realizzati dalla Spagna negli ultimi decenni. I puntini luminosi tracciano figure stilizzate sull'immensa meseta che circonda la capitale. Quando ho messo piede a Madrid, per la prima volta 11 anni fa, la Spagna cresceva del 5%. L'ottimismo imperava. Il miracolo spagnolo sarebbe durato ancora 7 anni, aiutato non solo da un tasso di crescita eccezionale, ma anche da un'immagine pop e libera che le riforme sociali targate Zapatero hanno progressivamente introdotto. Poi, nel 2008, la caduta e l'apertura di una crisi che ha fatto sprofondare il paese nell'incubo di un futuro privo di promesse. Madrid si risveglia lentamente la mattina. Alle 9 il centro della città, Puerta del Sol, è un deserto che attende l'apertura un'ora dopo dei centri commerciali. Sol è un'isola di tranquillità, anche se solo per un'ora, in una città che esplode di traffico, come tutte le grandi metropoli. I suoi quasi 6 milioni di abitanti riempiono le strade del centro, in particolare del Paseo de la Castellana, cuore pulsante degli affari. A Puerta del Sol la fanno da padroni gli strilloni dei negozi di compro oro che stanno spuntando come funghi nel centro. Un altro segnale di crisi. La gente vende l'argenteria di famiglia quando le cose vanno male. Corren. Fuerte viento de tormenta. A poche settimane dall'appuntamento cruciale con le elezioni politiche, il Partito Socialista che governa la Spagna si attende la burrasca. La sconfitta è quasi certa, con sondaggi che a fine ottobre davano il PSOE al 29,7%, 14 punti in meno rispetto alle ultime elezioni. Una vera e propria debacle annunciata. Nosotros, creemos que queda mucho partido, como decimos. Incontriamo il deputato socialista Juan Moscoso del Prado, un docente di economia, mentre sta letteralmente fuggendo da Madrid per una lunga settimana di campagna nella sua regione, la Navarra. Crediamo che resti ancora molto da giocare, dichiara ottimista. Dobbiamo provare a spiegare ai cittadini che una gestione della crisi da parte del centrodestra sarebbe ben peggiore. Ma quali sono i problemi maggiori in Spagna, le chiedo? Il principale problema in Spagna è il paro. Il problema principale per la gente è la disoccupazione, associata allo scarso ottimismo verso il futuro. Abbiamo vissuto molto bene negli ultimi 25 anni, ora però la gente non vede l'uscita dalla crisi. Abbiamo commesso errori come governo. Il principale è stato non combattere contro la bolla immobiliare, contro l'eccesso di predominio del settore della costruzione. La bolla esisteva già nel 2004, noi non siamo riusciti a fermarla prima che esplodesse, distruggendo quasi 3 milioni di posti di lavoro. Quali ricette, gli chiedo allora? La ricetta? Occorre scommettere sulla formazione di alto livello, sull'innovazione, sulla tecnologia, sui settori del futuro. Ciò richiederà molti anni di investimenti e di sforzi. Una parte importante dell'economia spagnola si è distrutta e non tornerà ad essere più come prima. Occorre scommettere su altri settori, mantenendo la protezione sociale, conclude Moscoso. Per il Partito Popolare. Iñigo Méndez de Vigo è invece una vecchia conoscenza. Eurodeputato popolare, uno dei più importanti politici del centrodestra spagnolo a Strasburgo. Mi riceve nella sede del PP nella storica calle Genova, dove si preparano i festeggiamenti della notte del 20 novembre. Per il Partito Popolare l'occupazione è il punto cruciale della nostra politica. Le nostre idee sono molto semplici. Occorre scommettere sulla crescita. La crescita genera occupazione e la migliore politica sociale è creare posti di lavoro. Noi dobbiamo raccontare agli spagnoli la verità, chiamandoli a un grande progetto nazionale per la crescita. Personalmente credo che la Spagna abbia bisogno di un grande progetto nazionale inclusivo, con un governo forte e con una maggioranza assoluta, spiega De Vigo. Ma quali riforme in concreto, gli chiedo? La prima cosa da fare, se vinciamo, è fare un'analisi del bilancio pubblico. La seconda, parlarne agli spagnoli. Successivamente occorre implementare un piano di riforme basato sull'austerità e sull'impulso alla crescita. Occorre un grande patto di Stato con riforme strutturali in grado di toccare tutti i settori, dice De Vigo. Per capirne di più sulla situazione economica della Spagna di oggi andiamo dunque a fare visita al gruppo editoriale Intereconomia. La giornalista Eva Pareja, reporter di Business Television, ci elenca i tre problemi in cima alle preoccupazioni di un paese che si prepara al voto. In primo luogo sta il paro, in secondo luogo sta la situazione economica. In primo luogo la disoccupazione, poi la situazione economica e infine i politici. I tre fattori, dice, sono strettamente collegati. La disoccupazione è al 20% e sta distruggendo la fiducia. Più di 1 milione di famiglie nel paese non ha un solo componente occupato, uno solo. È una situazione insostenibile. Alla fine ci salva l'economia sommersa, che impedisce un'estensione dei movimenti di protesta. Le prospettive a medio termine per la Spagna sono molto complicate. A Eva Pareja chiediamo quali sono state le principali cause di questa crisi. La bolla immobiliare, ma soprattutto non aver saputo sgonfiare questa bolla e rifiutare di riconoscere l'arrivo della crisi. Nessuno, neppure Zapatero, ammise il sopraggiungere della crisi nel 2008 e non furono prese in tempo le misure necessarie. La bolla resta il grande problema, colpisce le banche, il credito, le imprese e la gente. Ma la politica, le chiediamo, come si pone di fronte alla sfida dell'economia? Ciò che propongono popolari e socialisti sono nuove misure di tagli, ma soprattutto una nuova legge di stabilità. Ma il grande problema sono le spese delle regioni e dei municipi, che potrebbero farci mancare l'obiettivo di risanamento. Gli obiettivi sono chiari, ma mancano misure concrete sul piano. Eva Pareja non pensa che il sistema bancario spagnolo sia a rischio. Il problema, sottolinea, sono le casse di risparmio che hanno ricevuto denaro pubblico. A fine ottobre è arrivata la doccia fredda dell'Europa, che ha investito l'intero settore. Le 5 grandi banche iberiche dovranno ricapitalizzarsi per 26 miliardi di euro, circa un quarto del totale della ricapitalizzazione su scala comunitaria. Seconde per sforzo solo alla Grecia. Anche se, a detta di tutti, il problema principale restano, come dicevamo, le casse di risparmio. La crisi in Spagna ha tenuto un componente adizionale. La crisi in Spagna ha coinciso con lo scoppio della bolla immobiliare, afferma Ines García Pintos, a capo delle relazioni internazionali della Confederazione Spagnola delle Casse di Risparmio. Le banche iberiche erano molto esposte al settore. Quando la bolla è esplosa, ne sono state investite, spiega. Il problema delle casse, aggiunge, è che trattandosi di fondazioni e non di società per azioni, non hanno potuto ricorrere al mercato dei capitali, il che ha reso il modello debole. Questo, unito a casi di cattiva gestione, ha provocato una maggiore sofferenza per le casse. Pensi che da 45 siamo passati a 15 in soli 2 anni, una riduzione brutale. Molte si sono fuse tra loro o sono state assorbite. Gruppi di casse si sono unite, spostando le loro attività finanziarie a una banca, come è stato il caso di Bankia, che può accedere al mercato dei capitali. 2 casse minori sono state liquidate e una terza, la CAM, è sotto intervento. Le chiedo se siano dovute ricorrere a finanziamenti statali. Sì, lo che passa che nel caso spagnolo... Sì, nel caso spagnolo però gli aiuti statali sono stati infinitamente minori, parliamo di meno del 2% del PIL. Inoltre si tratta di prestiti, dice Ines. È possibile che le concentrazioni tra le casse non siano finite, ma crediamo che la stabilità del sistema sia stata garantita, anche se avverte. Temiamo che nei bilanci affiorino prima o poi altri assets e prestiti immobiliari tossici legati alla bolla, ma io credo che quando i bilanci si risaneranno torneremo a garantire la solvibilità. Deja que la lluvia acaricie tus... A questo punto è arrivato il momento di raccontare anche settori che in Spagna reggono o quantomeno danno speranze in ottica futura. Il primo è quello delle infrastrutture. Ad ammetterlo è stato lo stesso FMI. Il settore in Spagna è tra i primi al mondo. Acesa, Abertis, Ferrovial sono nomi pesanti del settore. Ma le cose da oltre un anno vanno meno bene. Nella parte nord di Madrid, in un edificio reso anonimo per le passate minacce dell'ETA, ha sede la SEOPAN, l'associazione di riferimento del settore. David Taguas ne è il presidente. Il nostro settore, che ha una storia di successo alle spalle, si confronta con una crisi speciale che definisco come un doppio shock, caduta della domanda a cui si associa uno shock nell'offerta. La situazione peggiore immaginabile. Lo shock della domanda è più conosciuto, è associato al piano di consolidamento fiscale che ha comportato una minor spesa infrastrutturale. Tuttavia anche l'introduzione della nuova legge sulla morosità ha provocato un innalzamento dei costi che ha inciso sull'offerta. Il settore infrastrutturale ha perso circa 1 punto nel PIL annuale. Ripercussioni sull'occupazione, gli chiedo? Possiamo stimare una riduzione complessiva pari a 180.000 occupati, sono ripercussioni importanti. In 2 anni ciò ha provocato la caduta dell'occupazione di quasi 2 punti sull'impiego totale. L'altro settore di cui si fregia la Spagna è il turismo. Col 7% nelle quote di turismo mondiale e flussi record di stranieri, la penisola iberica è una delle mete più importanti dell'intero continente. Giuliano Gasparini, Senior Associate a Madrid per HWS, società di consulenza nel settore turistico. Il turismo è senz'altro la chiave di volta e un po' il fattore su cui la Spagna sta tentando di recuperare i problemi della crisi. Dov'è che la Spagna è più brava? Secondo me è più brava innanzitutto nel fare pianificazione. I lavori di tessuto urbano che stanno facendo a Madrid sono molto orientati nell'incrementare l'offerta museale. Barcellona è un esempio classico, lampante, emblematico di come si fa il city marketing. E la programmazione e la pianificazione per alcuni altri destini, tipo Canarie o Playa de Palma, sono cose molto ben pensate dal governo, quindi in un'ottica di largo raggio. Nel caso della Spagna, un'altra cosa positiva è l'attrazione di investimenti stranieri. Qui mi sembra che l'Italia stia perdendo un po' il treno. Entrenador José Mourinho! La sera Madrid vive, per esempio nel suo stadio, il mitico Santiago Bernabéu. Un colpo d'occhio impressionante. Qui allena un tale José Mourinho, vecchia conoscenza dell'Italia. In questo ci somigliamo molto, italiani e spagnoli. Davanti al campo di gioco si dimentica la crisi, si cancellano i problemi. Poi, se il Real vince 3-0, piegando in due gli avversari, tanto meglio. Domani è un altro giorno. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.